Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Grazie a Fabio Cantadori in regia la parte tecnica, a Laura Vanossi in redazione. C'è il nostro sommario, andiamo. L'esercizio adatto per ogni nostro acciacco. Giornata nazionale per la ricerca sul cancro. Capire per guarire. La ricerca diventa cura. Artiglio del diavolo. Non graffia, ma lenisce. Oggi una puntata dedicata all'attività fisica, di cui approfondiremo il ruolo non solo preventivo, ma soprattutto terapeutico. Allora, se qualcosa vi fa male, chiamateci, perché oggi daremo la precedenza a schiena, spalla, anca, ginocchio e caviglia. Dolore, difficoltà di movimento, perdita di forza, disturbi che possono essere, lo sappiamo, causati da una postura non corretta, ma anche derivare da traumi, incidenti o anche, e lo abbiamo detto più volte, da stress, da attività fisica. Quindi, riprendendo il titolo della nostra puntata, chiamateci per trovare lo sport adatto ad ogni vostro acciacco. 824 00 24, ovviamente qua in studio con me il dottor Franco Confalonieri. Buongiorno. Buongiorno, ben ritrovati tutti. Che ho scoperto che in realtà sarebbe Francesco. Sì, è vero. Francesco detto Franco. Qualche acciacchino di oggi, che cosa ci racconta? Io soprattutto acciacchini a livello di schiena legati al sovraccarico della bambina, che ormai è sui 16 kg e portarla in spalla, come lei ama molto, comporta un sovraccarico non da poco a livello della colonna. Ah, pensavo da sovrappeso io. No. Allora, ormai ci siamo stabilizzati. Allora, siccome dalle mail che ci arrivano e anche dalle puntate precedenti abbiamo visto che gli infortuni e i dolori non mancano e non vengono mai da soli, ho chiamato un rinforzo. È tornato a trovarci il dottor Furio Danelon, medico dello sport e fisiatra del centro di riabilitazione ortopedico Isokinetic di Milano. Buongiorno dottore, bentornato. Buongiorno a tutti. Allora, dottore, la metto subito al lavoro perché il tema è molto ampio. E allora, abbiamo detto che ci occupiamo in particolare del nostro scheletro. Quindi io le chiederei subito, lei che ha il polso della situazione, perché vede tanti sportivi amatoriali, di fare un hit parade dei disturbi più frequenti. In testa che cosa mettiamo? Dunque, se parliamo di sportivi amatoriali, sicuramente mettiamo il ginocchio, anche perché in Italia diciamo che gli sport più comuni e più popolari sono sport come il calcio, appunto, basket, pallavolo, sono sport che riguardano in particolare, caricano gli arti inferiori, quindi diciamo il ginocchio, la caviglia sicuramente, e poi la colonna vertebrale in generale. Questo però riguarda non soltanto gli sportivi, ma una massa più importante e più ampia della popolazione. Dottor Confalonieri, noi prendiamo sportivi e sportivini. Sì, diciamo che oggi vorremmo proprio vedere le due facce dello sport. Allora, che i nostri ascoltatori ci raccontassero se per loro l'esercizio fisico, lo sport è servito come terapia, quindi si è servito a risolvere dei problemi da squilibrio, da postura scorretta, da sovrappeso, e quindi attraverso lo sport sono guariti o sono stati meglio, oppure se lo sport è stata la causa scatenante del male, quindi magari stavano bene, hanno cominciato a fare sport, ne hanno avuti benefici, ma poi, accompagnati a questi benefici, è sorto qualche problema, per esempio, come diceva il dottor Danelon, a livello del ginocchio. Quindi vogliamo vedere se prevalgono coloro a cui lo sport ha fatto bene, li ha guariti, o coloro a cui lo sport ha fatto male, cioè ha creato un problema, una patologia più o meno grave. Grande, vediamo chi vince. Grande dottor Francesco Confalonieri. 824 0024. I messaggi come sempre al 349 238 6666. Una mela al giorno. Tante volte abbiamo parlato di ricerche, torniamo a farlo oggi in occasione della 13ª edizione della giornata per la ricerca sul cancro. Questo è un appuntamento importante, senza dubbio, per far conoscere i risultati ottenuti, ma anche per illustrare i prossimi obiettivi e quindi per assicurare, attraverso la raccolta di donazioni, nuovi fondi ai ricercatori italiani che della ricerca, diciamocelo, sono il motore, la vita. Il tema di quest'anno era chiuso in un messaggio molto incisivo: capire per guarire, la ricerca diventa cura. E noi ne parliamo col professor Antonio Moschetta, ricercatore AIRC dell'Università di Bari e responsabile del laboratorio di metabolismo lipidico tumorale del consorzio Marionegri Sud Santa Maria in Baro in Abruzzo. Buongiorno professore. Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Professore, iniziamo dalla prima frase, capire per guarire. La ricerca ha fatto tanti passi avanti, direi che è un momento decisamente favorevole, ma ci spieghi che cosa avete capito? Guardi, il momento è decisamente favorevole perché tanto è stato capito, ma la ragione per cui il motto di questa giornata nel 2009 è capire per guarire è tutta nell'intento di conoscere meglio, nel dettaglio, la carta d'identità di quel determinato tumore in quel determinato paziente per poter pertanto usufruire di nuovi farmaci che questa volta vadano a colpire delle strategie ad personam e quindi decisamente più efficaci perché sono individualizzati nel farmaco e nel tumore del singolo paziente. Professore, ogni anno la ricerca va avanti grazie sicuramente al vostro lavoro e anche al sostegno di tutti quelli che nella ricerca credono e investono, ma quali sono i risultati più importanti di quest'anno? Diamo una ragione in più per continuare a sostenere la ricerca. Ma grazie per la domanda. Noi in realtà viviamo di progetti, di idee e nello stesso tempo riusciamo ad essere felici quando abbiamo dei risultati. Quest'anno, le cito qualche esempio, siamo riusciti a definire con un vero e proprio atlante di espressione quali sono gli interruttori che accendono, spengono i geni subito dopo una mutazione, per esempio nel tumore del colon retto. Perché questo è importante? Perché è un passo in avanti per capire se un gene è spento, dobbiamo riaccenderlo e dobbiamo farlo utilizzando tutti i composti che madre natura ci ha dato, composti presenti nei nutrienti, composti di sintesi che ci fanno e ci rendono in grado di riaccendere i geni spenti e pertanto proteggere dal tumore che è un disequilibrio, sia pur esso corretto, così tutte le cose che madre natura fa. Quindi, professor Moschetta, quando saranno disponibili, quando questi risultati arriveranno proprio al letto del paziente? Ma guardi, molti di questi risultati negli ultimi anni sono già arrivati al letto del paziente. Pensiamo alle target therapy che si fanno per alcuni tumori della mammella, pensiamo anche ai nuovi farmaci per i tumori del fegato. Queste sono delle strategie che sono passate dal bancone di laboratorio in clinica nel giro veramente di pochi anni. E le dirò di più, un paziente che ha un tumore oggi nel 2009 ha una di gran lunga possibilità di essere curato con terapie specifiche rispetto ad uno stesso paziente che ha eventualmente ha avuto un tumore nel 1999, cioè al di là di 40 anni di ricerca di AERC bastano 10 anni grazie alla costante ricerca di laboratorio per poter cambiare davvero la vita di un soggetto con la stessa patologia. Professore, per sostenere la ricerca bisogna investire nei giovani ricercatori che della ricerca sono la linfa vitale. Questo è proprio anche l'impegno dell'AERC, mi piace sottolinearlo, che i ricercatori li coltiva. Abbiamo detto linfa vitale, direi come dei fiori preziosi. Che cosa ha fatto AERC per lei, ad esempio? Guardi, grazie davvero per questa domanda. Io non ero nel campo di oncologico, sono stato 3 anni in Olanda, 4 anni in Texas e sono rientrato in Italia grazie ad un grant di AERC. Perché questo è importante? Perché AERC mi ha dato un grant tranquillo di 5 anni e mi ha detto: tu devi solamente pensare ed osare con nuove idee. E questo significa garantire ad un giovane di poter provare nei primi anni della sua vita di essere in grado di creare un gruppo, di avere nuove idee, di portare nuova linfa alla ricerca. Mi creda, questa è la cosa veramente più importante. Noi quest'anno chiediamo a tutti gli italiani di continuare a sottolineare, ad appoggiare i giovani ricercatori nella loro passione per la ricerca e nella loro cultura, che solamente AERC, con un sistema meritocratico e trasparente fatto di revisori stranieri, sa fare ormai da 40 anni. La passione si sente anche nell'AERC e nei ricercatori. Andate sul sito dell'AERC allora. Io vi ringrazio, il professor Moschetta. Buona grazie giornata, buona ricerca. Grazie davvero, grazie a tutti. Grazie voi. E complimenti. Grazie. Pronto soccorso. Allora, avete corso troppo male, avete esagerato in palestra, i vostri muscoli gridano giustizia, non vi preoccupate, oggi siamo qui con voi e per voi, insieme a noi il dottor Franco Confalonieri, al telefono in linea quindi il dottor Furio Danelon. Allora, abbiamo subito Angela che ci chiama all'824 0024. Iniziamo bene, Angela, buongiorno. Buongiorno. buongiorno Nicoletta, grazie per avermi dato questa opportunità. Complimenti per la trasmissione. Ecco, volevo fare una domanda al dottor Confalonieri. Dunque, io corro da diversi anni, sì? Faccio tre volte alla settimana, a volte due, insomma, un po' dipende un po' del tempo che ho a disposizione, tre quarti d'ora. Però ultimamente ho avvertito un forte dolore al ginocchio, all'anca e al piede, e mi sentivo anche, mentre correvo, il polpaccio molto rigido. Sì. Io ho interpellato il mio medico, lui ha detto che potrebbe trattarsi di artrosi. Mm. Adesso dovrò verificare tramite una risonanza magnetica che farò, e, però io nel frattempo mi sono fermata con la corsa. Ma quanto corre lei, Angela, di solito? Tre quarti d'ora. Tre quarti d'ora. Sì. Un'indicazione, sì, dottor Confalonieri, che le è utile? Sì, soprattutto bisognerebbe capire da dove sono cominciati i dolori, cioè il primo dolore a che livello è comparso? Allora, a livello del ginocchio, dalla parte sotto e dietro il ginocchio, ecco, la parte posteriore. Perché credo che poi eventualmente il dottor Danelon potrà completare questa analisi, però è molto importante in queste situazioni capire da dove comincia il dolore, perché probabilmente il dolore comparso al ginocchio, che poteva essere un tipico dolore da sovraccarico, un dolore legato al terreno sul quale correva Angela, piuttosto che un dolore collegato ad un trauma acuto, ha poi scatenato tutti gli altri dolori, perché probabilmente per prevenire o per ridurre questo tipo di dolore Angela ha leggermente modificato la tecnica di corsa, ha utilizzato in modo diverso polpaccio, gambe e conseguentemente la schiena, e quindi il tutto è comparso a cascata. Dal mio punto di vista quindi sarebbe utile adesso ripartire dal ginocchio, verificare se effettivamente è successo qualcosa, risolvere il problema a livello del ginocchio e probabilmente, ricominciando a correre con una tecnica adeguata, anche gli altri problemi potrebbero sparire. Dottor Danelon, il dottor Confalonieri ci dice in pratica un dolore tira l'altro, e lei aveva già anticipato che al primo posto tra i dolori è sicuramente il dolore al ginocchio, quindi insomma già l'avevamo anticipato e Angela l'ha confermato. A completamento di quanto già ci ha raccontato il dottor Confalonieri, prendendo spunto dal caso di Angela, abbiamo dei suggerimenti in termini preventivi anche? Sì, sicuramente. Il discorso è, per completare anche quello che ha detto il dottor Confalonieri, è capire bene con maggiori dettagli da dove parte questo dolore, ma anche quando si manifesta. Anche questa è un'informazione molto utile al medico, che chiaramente deve valutare tutte le possibili informazioni, perché noi possiamo avere un dolore che insorge durante la corsa oppure dopo la corsa, a freddo. Cosa vogliono dire? Che dolori sono? Tendenzialmente, quando il dolore compare a freddo, spesso è di origine dai tessuti molli. I tessuti molli sono i tendini, sono i muscoli. Mentre invece se il dolore sorge durante la corsa, allora si può sospettare, o per esempio che addirittura impone un'interruzione della corsa, un dolore più di provenienza articolare. Questo ovviamente va preso un po' con le molle, perché va valutato il singolo caso. È importante a tale proposito, anche mi ricollego, perché la medicina poi in fondo è così, a quello che ha detto proprio il professor Moschetta, perché il professor Moschetta pochi minuti fa alla radio ha parlato di personalizzazione della terapia nel tumore, ha parlato proprio di ottenere di carta una d'identità. Personam, sì. Esatto, quindi è molto importante avere tutti i dettagli dal paziente per personalizzare poi il consiglio e l'eventuale trattamento. Abbiamo anche dei consigli preventivi, dottor Confalonieri? Rispetto a queste problematiche, sì, sicuramente. Il primo, scegliere scarpe e calzature adeguate. Abbiamo detto più volte, ma il più delle volte non si fa. Si pensa di dover scegliere le scarpe ad hoc quando si corre ormai da un po' di tempo, si è raggiunti un certo livello, mentre è fondamentale partire con delle scarpe che siano correlate alle caratteristiche del nostro piede da una parte, alla tipologia dell'appoggio e anche alla nostra tecnica di corsa. In secondo luogo, scegliere i terreni più adatti e possibilmente variare il terreno, cioè non correre sempre soltanto su asfalto o sempre soltanto su pista o sempre soltanto sul tapis roulant piuttosto che sul treadmill, e poi possibilmente iniziare, come si è detto più volte, con molta gradualità, in modo da dare il tempo non soltanto al nostro apparato cardiovascolare, quindi alla nostra resistenza, ma anche alla nostra muscolatura, alle nostre articolazioni e ai nostri tendini, di adattarsi a questo tipo di sforzo che è nuovo. Abbiamo Pietro che ci chiama da Vicenza. Speriamo sia un ascoltatore che ci dice che lo sport è stato cura. Vediamo. Pietro, buongiorno. Buongiorno a tutti intanto. Allora, 2 mesi fa ho cominciato ad avere un piccolo dolore alla schiena. Ah, allora lei è già del partito che lo sport ha fatto danni. Va bene. Poi mi ha preso la gamba con caldo e freddo, poi mi è scomparso il caldo e il freddo e mi è venuto del formicolio. Sì. Da anni io faccio nuoto, soprattutto a rana. Cosa mi consigliate di fare? Dottor Confalonieri, un Pietro da Vicenza che fa nuoto, quindi noi abbiamo tante volte dedicato delle intere puntate a questa disciplina. Beh, sicuramente in linea generale il nuoto è uno degli sport più adatti a chi ha problematiche o è un soggetto a rischio dal punto di vista della colonna, perché è uno sport che svolgendosi in assenza di gravità riduci i sovraccarichi a livello della schiena. Peraltro si sa anche che la nuotata a rana, soprattutto se interpretata non correttamente, è una delle nuotate più a rischio come sovraccarico a livello della colonna. Nel caso di Pietro direi che vale la pena sicuramente di approfondire con uno specialista il problema, perché sembrerebbe esserci una sofferenza anche significativa, anche importante a livello nervoso, quindi delle radici, a livello della colonna stessa, che ha comportato le parestesie di cui parlavo, quindi queste sensazioni descritte da Pietro, il dolore e adesso addirittura il formicolio. Quindi direi senz'altro di interrompere in questo momento il nuoto e di analizzare prima con uno specialista ed eventualmente poi con un esame la situazione della sua colonna. Dottor Danelon, un messaggio per lei. Sono un tennista amatoriale, ma in questi giorni sono a riposo perché la mia spalla è dolorante. Per quanto tempo devo restare fermo? Bella domanda, dottor Danelon. Noi quando ci abbiamo male, vogliamo fermarci, abbiamo premura subito di riprendere, magari ancora prima di capire che cosa ci è successo. E questo è, diciamo, purtroppo un errore frequente. Quando noi diciamo lo sport fa male, come lei ha affermato prima, molto spesso in realtà è proprio questa ansia di ritornare in campo prima di fare gli accertamenti necessari del caso. Quindi è difficile dare una risposta generica a questa domanda, però è molto importante prima fare la diagnosi, quindi capire da dove nasce il dolore. Quindi finché non si è fatta la diagnosi tendenzialmente bisogna fermarsi, perché intanto non dobbiamo fare le Olimpiadi, cioè anche se ci fermiamo un mesetto, no? Ma il fermarsi basta, potrebbe essere anche controproducente. Bisogna proprio capire da dove nasce il problema e poi trovare la terapia migliore ricordando sempre che tra le terapie migliori potrebbe esserci per esempio non lo stare fermo, ma fare l'esercizio adatto a quella situazione. Cioè consideriamo sempre che l'esercizio va considerato proprio una terapia, e come tutte le terapie deve essere selezionato sul caso singolo e implica poi l'adattamento dell'organismo allo stress al quale noi lo sottoponiamo, quindi un adattamento funzionale che potrebbe essere positivo anche come terapia in quel caso, però dobbiamo capire meglio di che cosa si tratta. Quindi prima la diagnosi, poi la terapia, che potrebbe essere anche fare l'esercizio, più che lo sport, diciamo fare l'esercizio in modo da far adattare l'organismo allo stress dello sport. E potrebbe anche essere, dottor Confalonieri, anche combinare lo sport che abbiamo fatto sino al momento in cui abbiamo avvertito dolore magari con un altro, o cambiare sport. È successo tante volte che lei abbia consigliato ai nostri ascoltatori di lasciare la bicicletta a favore del nuoto o... Sì, diciamo che quando molto correttamente dottor Danelon parla di un altro esercizio fisico somministrato quasi come una terapia che va a riequilibrare le situazioni che hanno determinato la patologia, si riferisce sia a uno sport genericamente inteso, quindi cambiare sport o integrarlo, sia soprattutto a tutto quel lavoro di potenziamento, di rafforzamento, di riequilibrio che troppo poco si fa e che basterebbe fare in modo continuativo anche per pochi minuti al giorno per risolvere moltissimi problemi. La vecchia ginnastica, possiamo chiamarla anche con nomi più esotici, possiamo chiamarlo recupero funzionale, possiamo chiamarlo riequilibrio muscolare, chiamiamola come vogliamo, però se corretta, se individualizzata, se costruita su misura per quelle che sono le problematiche della persona, spesso può essere determinante nel migliorare la situazione. Eccoci, siamo tornati. Lo sport vi ha fatto bene? Raccontateci. 824 0024. Lo sport vi ha fatto male? Lamentatevi. Siamo qui per voi, per suggerirvi anche delle soluzioni. 824 0024. Il numero è sempre uguale. Abbiamo Michele che ci chiama da Vicenza. Michele, buongiorno. Buongiorno a voi. Com'è andata? Per lei è stato buono o cattivo? Ottimo, magnifico. Io gioco a pallone, ho sempre problemi a un ginocchio, si gonfia moltissimo, condrosi, un legamento, un tendine che è un po' troppo lungo. Sono un disastro. Un disastro. Ho letto il libro di Carlo Ancelotti che, scherzando, dice che le ginocchia più ti fanno male, più bisogna punirle, che il dolore immaginare. Beh, ho detto, ci provo anch'io. Ho iniziato a correre. Correre basta. Che dovrebbe essere una cosa che crea traumi, invece a me mi ha risolto qualsiasi problema. Io adesso corro anche un'ora e mezzo, 15-20 chilometri, continuo a giocare a pallone, a calcetto in particolare, e corro, e non ho più nessun problema, anzi, le mie ginocchia, tutte e due lavorano molto molto meglio. Quindi ha preso la situazione di petto, Michele. Ho robustito i muscoli, i tessuti, non lo so, però non... era lì lì per essere rottamato, Michele, invece voilà, si è ripreso. Esatto. Magnifico. Dottor Danelon, ha fatto bene Michele? O gli è andata bene? Beh, direi che col senno di poi sicuramente. Io non consiglierei, diciamo, a tutti i pazienti, tutte le persone che soffrono di problemi al ginocchio importanti, di mettersi pronti via a correre per provare, nel senso che non è la strategia a priori migliore, però i risultati che ha avuto l'ascoltatore sono sicuramente validi e quindi questo va preso atto. Io sono molto contento di questa telefonata perché penso che in realtà ci sia molta gente alla quale lo sport, ma in particolare l'attività fisica, abbia fatto bene e che probabilmente sono meno, come dire, arrabbiati, quindi non sono meno spinti a telefonare forse, ma moltissimi pazienti hanno risolto molte problematiche, soprattutto a livello di colonna, ad esempio di colonna vertebrale, adottando proprio l'abitudine all'esercizio fisico. Allora, diciamo ai nostri ascoltatori da casa, se siete del partito di Michele, possiamo dire così, dottor Confalonieri, chiamateci, dite Michele e andate in onda, 824, mi manda Michele, 824 0024, Fabio Cantadori è già qua che mi guarda perché pensa già che io sforerò, ma io non sforerò, chiuderò perfetto. Quindi Giuseppe dalla provincia di Latina, buongiorno Giuseppe. Buongiorno. Oggi per me è una giornata molto difficile, per lei come sta andando? Ma insomma, c'è una pioggia che fa paura, però insomma uno deve lavorare, quindi deve... Dai Giuseppe, tiriamoci su, ci racconti una cosa carina o una cosa triste? No, una cosa triste no, diciamo che non forse come quel signore lì, anch'io prima avevo dei problemi al ginocchio, però poi correndo, e poi alla fine non sto sentendo più niente, però quello che volevo dire un'altra cosa. Non sto sentendo più niente in che senso? Di dolore? Esatto, il dolore, non mi va, cioè corro tranquillamente, però volevo dire un'altra cosa. Certe volte mi scoccio proprio, cioè con il cervello non ce la faccio, anche se dovrei farlo, perché ho 56 anni, sono come minimo 20 kg sopra, più 25 che non 20. Diciamo 22, va, 22 e mezzo. La glicemia è quella che è, sempre alta, quindi mi devo mantenere sempre e non ci riesco perché sono un golosone. Però la mia domanda principale era questa: io riesco a correre, no? Però faccio quella corsettina lenta oppure quella passeggiata veloce, no? Sì. La corsettina lenta oppure passeggiata veloce, anche un'ora e mezza. Riesco a farlo per adesso soltanto una volta a settimana, lo sto facendo, però l'ho fatto anche per 5-6 giorni consecutivi, per qualche settimana. Volevo dire, dato che corro con il cardio frequenzimetro, sì, come deve essere il battito? Costante e regolare? O posso portarmelo anche un po' su e camminarci, anche che ne so, un quarto d'ora, 20 minuti? Per esempio, faccio per dire, a 150 battiti. Che mio figlio, che è un laureato ISEF, che insegna anche in palestra, però non è un medico, mi dice che il mio battito dovrebbe essere il massimo, dovrebbe essere 136. Allora adesso vediamo, dottor Confalonieri, già Giuseppe c'è molto simpatico perché dice ogni tanto mi scoccio. Sì, infatti diciamo che per chi corre abitualmente il cardiofrequenzimetro può diventare uno strumento per divertirsi un po' di più, per avere qualcosa a cui pensare, per fare qualcosa di più specifico. Relativamente ai consigli che ci chiede, io direi che può alternare due tipi di allenamento. Un allenamento fatto ad intensità costante, mediamente bassa, visto che il suo obiettivo fondamentale è anche quello di perdere peso. Qui l'ideale sarebbe poter fare un test, ormai tanto che corre, trova sicuramente un medico che glielo può fare, individuare la propria velocità di soglia anaerobica, la velocità a cui si comincia ad accumulare acido lattico, e poi allenarsi in modo continuativo a una frequenza cardiaca circa il 15-20% più bassa della frequenza di soglia. Se no, più semplicemente, questo tipo di allenamenti li può fare ad una frequenza costante intorno ai 115-120 battiti al minuto. Qui devo necessariamente generalizzare. Sì. Un'alternativa interessante potrebbe essere invece alternare, per esempio, 45 secondi, un minuto a velocità maggiore, quindi a una frequenza cardiaca più alta, a un'intensità più alta, con un minuto e mezzo, due minuti, quindi il doppio in termini di tempo rispetto a quanto fatto ad intensità elevata, di recupero molto blando. Per esempio, corre 45 secondi a una velocità medio-alta e poi recupera per un minuto e mezzo. E questo lo fa per blocchi di lavoro di 12-15 minuti. C'è una varietà nell'allenamento, si diverte molto di più e la cosa risulta molto efficace sia dal punto di vista cardiaco sia nel determinare la perdita di tessuto grasso e quindi nel determinare un dimagramento utile, intelligente, specifico. Dottor Danelon, Mara ci scrive: io e mio figlio soffriamo di tallonite. Per me, over 50, va bene il nuoto, ma per mio figlio 19enne ci verrebbe qualcosa di più che lo diverta un pochino, no? Cosa suggerite? Allora, per il divertimento andiamo dal dottor Confalonieri. Per le cose, non stavo dicendo, per le cose serie, per la tallonite, dottor Danelon, che cos'è, come si previene e che cosa si può fare? Se è un problema solo di scarpa o di appoggio sbagliato, che indicazioni possiamo dare? Bisognerebbe avere più informazioni, come al solito il dettaglio nell'informazione è fondamentale. In ogni caso le cause più frequenti sono alterazioni dell'appoggio plantare, sì. Quindi o c'è stato un trauma in precedenza, quindi una caduta sul tallone, allora in quel caso lì chiaramente bisogna approfondire, perché le lesioni traumatiche soprattutto nei giovani devono essere accuratamente monitorate e diagnosticate. In ogni caso le cause più frequenti al di là dei traumi sono appunto le alterazioni dell'appoggio o anche alcune volte legate a diciamo accorciamenti di alcuni tendini, quindi sì. Diciamo tutto. Però il fatto che l'abbiano sia lei che il figlio, cosa vuol dire, può essere un indizio? Potrebbe essere, ovviamente, siccome chiaramente la genetica non dice è casuale, la sua, potrebbero avere un certo tipo di allineamento dell'arto inferiore, diciamo un assetto dell'arto inferiore anomalo, e quindi questo assetto potrebbe favorire il sovraccarico ad esempio della fascia plantare. E quindi un plantarino potrebbe essere utile? Certo, un plantarino naturalmente potrebbe essere una su misura delle soluzioni, però così anche ad esempio molte volte si associa a questo una scarsa allungamento, flessibilità dei tendini posteriori ad esempio del polpaccio, della gamba, e quindi un lavoro specifico, ecco dove funziona l'esercizio come terapia, un allungamento specifico fatto con continuità di questi tendini potrebbe dare già un beneficio. Ed è arrivato il momento del nostro consiglio di lettura. Oggi, grazie all'iniziativa di Internet Book Shop, potete ricevere a casa il libro che si intitola Pilates per la schiena. Per ricevere questo libro a casa dovete essere però il primo ascoltatore e inviare un'email a esserebenessere@radio24.it con il titolo in collaborazione con ibs.it. Con il titolo, il vostro numero di telefono e i vostri recapiti, naturalmente. E andiamo subito a Rocco, che ci chiama dalla provincia di Chieti. Rocco, buongiorno. Buongiorno a voi. Ci racconti? Allora, si schieri, lei è del partito di Michele, lo sport fa bene, mi ha fatto bene, mi ha rimesso in sesto, oppure, ahimè, quando ho cominciato, che cosa mi è venuto in mente? Io... tutti e due i problemi. Ah, benissimo. In quanto circa 30 anni fa io e mia moglie abbiamo deciso di correre insieme e abbiamo corso per 30 anni usando sempre gli stessi allenamenti, cambiando le scarpe nello stesso periodo. Abbiamo corso circa 40 maratoni in tutte le latitudini del mondo. Bravi. Ha contribuito in maniera meravigliosa allo sviluppo della vita coniugale, perché in pratica ci ha permesso di fare tante vacanze insieme. Sì, questa è una tesi. Questa passione. Ecco, questa è una tesi che è un cavallo di battaglia del dottor Confalonieri: sport insieme, sport in coppia. Sicuramente ha dato al nostro amore di coppia quella cosa in più, perché un hobby in comune ci ha permesso di. Noi abbiamo corso anche 30 chilometri, 40 chilometri insieme. Guardi, parlando. Dottor Confalonieri, dovremmo fare proprio uno sport, lo sport che ha unito la vostra coppia. Rocco magari interverrà nuovamente, ma adesso Rocco le chiedo se ha una domanda da fare ai nostri ascoltatori, così diamo anche la parola a Claudio e a Ezio che ci stanno aspettando. Io sono angosciato di questa cosa, cioè dopo 30 anni... Io ho avuto solo benefici, ho smesso di fumare, dimagrito, ho festeggiato ieri 60 anni in piena armonia, sono in grado di fare i miei 40-50 km di corsa tranquillamente. Mia moglie invece si è dovuta operare al ginocchio l'anno scorso, ha delle contropatie, il dottore consiglia di non correre più e io sono angosciato perché vedo, Certo. Vedo questa mia coppia che se mi si azzoppa la moglie cosa Sì. Guardi Rocco, lei ha detto una grandissima verità, se si azzoppa la moglie voi siete finiti, dottor Confalonieri. Ma direi che questa telefonata risulta perfettamente in linea con quanto abbiamo avuto modo di dire più volte oggi, che purtroppo lo sport va individualizzato. Qui c'è una bellissima storia di coppia e di sport, però gli organismi sono diversi, evidentemente a una certa età la corsa praticata in quel modo ha comportato dei problemi di sovraccarico, in particolare a livello del ginocchio, nella signora e non nel marito, cosa che può assolutamente accadere proprio perché l'evoluzione dei due organismi è diversa, o meglio l'involuzione, parlando di invecchiamento. A questo punto direi lei di invecchiamento. A questo punto direi che forse bisognerebbe, se vogliono continuare a fare sport insieme, scegliere uno sport diverso, meno traumatico, con minori sovraccarichi, e iniziare ai 60 anni l'avventura in un'altra disciplina. Perché dopo 30 anni si cambia. Esatto. Si rimane in coppia, ma si cambia. Oppure ognuno continua per conto suo e diamo nuova varietà alla vita. Beh, questo, e alla coppia. Questo. Claudio da Roma, buongiorno. Salve, io... Devo tenerlo un po' a bada questo dottor Confalonieri, perché poi si lancia, invita ai cambiamenti. Claudio, dai, veniamo a lei. Io cambiamenti perché sono 120 kg, quindi... Senta, io ho un problema più specifico, nel senso, ho delle ragazze che fanno pallavolo. Sì. Agonistico. Sì. La più grande ha 14 anni, è molto magra, fa 52 kg. Sì. Però ha avuto un paio di problemi alla caviglia. Siccome lei ha avuto anche la displasia, l'abbiamo operata col professor Guzzani, tutto a posto, c'era 3 mesi, quindi non era un problema. Io mi pongo il problema, ma il fatto di aver avuto la displasia non è che magari gli dà problemi per fare la pallavolo? Giriamo la sua domanda a Claudio, una bella domanda al dottor Danelon. Dottore, la caviglia? Sì, dunque... È con chi gioca a pallavolo, rischia di più? Sì, la caviglia è direi l'articolazione più traumatizzata negli sport come la pallavolo e il basket. Questo perché molto spesso la patologia più frequente è la distorsione, la classica storta della caviglia nella ricaduta, per esempio, dei salti. Tipicamente l'atleta cade, la cosa che succede più frequentemente è che cade sul piede di un compagno o di un avversario e la caviglia quindi... Ma al di là di questo, la domanda dell'ascoltatore è molto interessante perché mette l'accento sulla importanza della riabilitazione. Il signore ha parlato di un intervento che ha subito questa giovane paziente e in questi casi molto spesso non si cura a sufficienza il recupero dell'intervento. È chiaro che un intervento... Certo, l'intervento è stato fatto quando la bambina era piccolissima. Quanti anni sono passati? Aveva tre mesi, 14 anni. Congenita dell'anca, sì. Benissimo, quindi molto presto. Però anche in questo caso sicuramente può darsi che questo tipo di intervento abbia lasciato degli esiti, dei postumi, anche a lunga distanza, abbia modificato la crescita. Questo non lo sappiamo. In ogni caso quello che è molto importante è che venga valutato i diversi componenti che danno stabilità alla caviglia. Adesso io non so quale sia esattamente la patologia di cui soffre alla caviglia la piccola paziente, però... Molto spesso si tratta di problemi di instabilità nella caviglia, cioè la caviglia ha praticamente un gioco superiore al previsto e quindi in questo caso è molto importante il recupero della forza della muscolatura, delle capacità di equilibrio, di controllo della posizione della caviglia, le cosiddette capacità propriocettive, sì, che sono quelle capacità che ci permettono di controllare inconsciamente la posizione della caviglia, di reagire ai movimenti bruschi, ai movimenti che potrebbero provocare la distorsione, certo, e la storta. Quindi queste sono, è fondamentale recuperare queste due caratteristiche, quindi consiglio di approfondire una valutazione di queste due componenti. Allora, adesso voglio salutare il dottor Marco Temporin, che è in linea con noi, medico nutrizionista, specialista in igiene e medicina preventiva. Bentornato, dottore. Buongiorno Nicoletta, un saluto a tutti. Io con lei vorrei parlare dell'artiglio del diavolo, perché mi intriga, non graffia ma va bene per i dolori pungenti di questa stagione, è vero? Certamente. Allora, l'Arpagophytum procumbens, della famiglia delle pedagliacee, comunemente detto artiglio del diavolo, contiene alcuni principi attivi, quali l'arpagoside, che conferiscono a questa pianta delle proprietà antinfiammatorie e analgesiche. Quindi in questa stagione, o quando sentiamo un po' dei dolori muscolari o articolari, il diavolo ci viene in aiuto col suo artiglio, dottor Temporin. Esattamente, esattamente. Infatti è molto utile nel supporto di problemi quali dolori articolari, l'artrosi, la lombalgia, anche nei dolori da eccesso d'acidi urici, in quanto l'artiglio del diavolo ha una capacità antalgica, antinfiammatoria è veramente efficace. Un po' come un'aspirinetta vegetale. Esatto, tra l'altro ha detto una cosa molto importante Nicoletta, perché per i pazienti che soffrono di problemi di stomaco è bene sempre assumerlo a stomaco pieno e comunque nel dosaggio di 2 o 3 volte al giorno, lontano dai pasti o dopo i pasti. Ha effetto quasi immediato, dottor Temporin? La fitoterapia ha sempre bisogno di qualche giorno e quindi di conseguenza è bene utilizzarlo per qualche giorno con continuità senza interromperlo. Dottor Temporin, la ringrazio per essere stato con noi. Buona giornata. Buona giornata a voi tutti, arrivederci. Salutiamo anche il dottor Danelon, ringraziandolo per averci accompagnato in questo viaggio alla scoperta dei benefici o degli svantaggi che l'attività fisica può portare al nostro apparato scheletrico. Dottor Danelon, grazie a lei. Arrivederci a tutti e mi raccomando, buon esercizio, perché l'esercizio fa bene. Grazie dottor Danelon. Dottor Confalonieri, siamo rimasti io e lei. Bene. Allora, a chiusura di questa nostra chiacchierata, cerchiamo di dare qualche raccomandazione di prevenzione e anche di segnalare magari dei disturbi che non vanno trascurati. Quindi, gradualità. In questo caso, più che gradualità, individualità potrebbe essere il messaggio della trasmissione, cioè costruirsi lo sport su misura in funzione di quelli che sono i propri gusti da una parte, ma anche in funzione di quelli che sono i propri limiti, soprattutto fisici, dall'altra. E in caso di dolore, di fatica, se il ginocchio ci cede, la caviglia ci fa male, la spalla si blocca, non fare gli eroi. Non fare gli eroi, fermarsi, cercare di capire l'origine e provare a curarla attraverso un esercizio fisico ad hoc. E adesso noi ci fermiamo, sono contenta che ci avete seguito, sono contenta anche di chiudere in perfetto orario, tanti auguri, noi ci sentiamo domani per Questa Casa Non È Un Albergo, un saluto da Nicoletta Carbone. E dal dottor Confalonieri, a risentirci.